Eurozone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi apriamo il dossier minori e processo penale. La prima direttiva che modifica davvero il diritto penale riguarda la protezione del minore. Offrire un avvocato a un minore coinvolto in un processo penale, registrare gli interrogatori con una telecamera e preparare un esame medico e sociologico del giovane sono alcune delle garanzie della nuova direttiva sulla protezione dei minori. Ne parliamo con l'europarlamentare Caterina Chinnici, relatrice della direttiva. Possiamo dire che la costruzione di uno spazio di giustizia europeo parte dalla tutela del minore? Beh, sicuramente, intanto perché è un documento che comincia a costruire quello spazio di giustizia europeo al quale tutti guardiamo, e poi perché è un documento legislativo che tende a uniformare le procedure per i reati commessi dai minori in maniera quanto più possibile condivisa fra tutti i Paesi membri, quindi sicuramente ce n'era bisogno. In merito all'assistenza legale per il minore, ci chiediamo che cosa succede se il minore rinuncia a questo diritto, con la conseguenza che minori che commettono reati meno gravi, rinunciando ad una difesa adeguata, possano andare incontro conseguenze negative a lungo termine, come la difficoltà nel trovare lavoro sulla base della loro fedina penale. Cosa prevede allora la direttiva? Tutta la direttiva è stata concepita per dare concretezza al principio del superiore interesse del minore. Nel procedimento penale devono essere assicurate al minore tutte le garanzie, non solo quelle strettamente procedurali, ma anche quelle connesse alla condizione del minore di particolare vulnerabilità. E quindi l'assistenza del difensore è stata concepita come un diritto, diciamo, fondamentale. Però sono previste anche le deroghe, perché è chiaro ed è comprensibile che laddove si tratti di reati, per esempio, di minore gravità, allora si può adottare una procedura che sia diversa e che quindi non richieda necessariamente la presenza del difensore. È stata inserita un'altra garanzia per i minori, che prevede l'avvio di una valutazione personale, considerando la realtà sociale da cui proviene il minore, addirittura una valutazione medica nel caso in cui il minore si trovi in prigione. Sono strumenti indispensabili per la formulazione del giudizio? La valutazione personale è fatta proprio in funzione di dare gli strumenti al giudice, gli strumenti di conoscenza della situazione del minore, per individuare sia nel corso della procedura, sia poi a conclusione, la misura più adeguata per quel minore. E infine, cosa succede nei casi in cui un imputato commetta un reato da minorenne e durante la procedura diventi maggiorenne? Quale diritto si applica? La direttiva si applica quando il giovane commette il reato da minorenne, anche se nel frattempo poi, durante il corso della procedura, supera la minorità, diventa maggiorenne. Anche questa è una garanzia, ed è una garanzia importante. Io posso dire che proprio nella mia esperienza di magistrato per tanto tempo, fatta per tanti anni, ho potuto verificare come quel processo di rieducazione che si inizia quando il ragazzo, per esempio, è ancora minorenne, si interrompe bruscamente, disperdendo il lavoro che già è stato fatto, se per esempio dal carcere minorile viene trasferito nel carcere per gli adulti. Eurozone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.